È una domanda ovviamente che ci coglie tutti in questo momento un po' impreparati, anche perché mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti come si vada in ordine sparso, che anche il concetto di unità europea, di posizione comune sia abbastanza aleatorio. Ma soprattutto mi ha dato molte perplessità la pochezza proprio politica, no, di questa chiamata, nel senso che sì, si manifesta per l'Europa con le bandiere, ci vuole più Europa, sono tutte formule un po' semplicistiche, un po' banali anche, no? Cioè, quale Europa? Quindi partendo da questo interrogativo mi sono fatto tutta una serie di domande e visto che gli organizzatori citano i grandi padri europei, Altero Spinelli, il manifesto di Ventotene, ho anche approfittato per ricordarglielo, cioè per andare a leggere, rileggere quello che c'era scritto, quale Europa volevano questi padri fondatori, che non è né la UE che conoscevamo prima della guerra, ma tantomeno quello sfascio che stiamo vedendo in questo momento. Quindi mi sembra una domanda legittima. Poi io capisco di essere in un'estrema minoranza, no? In questo momento, che magari si pone queste domande e magari non se la sente di andare in piazza con siffatte pochevoli ragioni, no? Soltanto per sventolare una bandiera. Perché ci vorrebbero ben altre risposte e ben altre azioni politiche, a mio avviso. A proposito di questo appello, ad esempio, non figura mai la parola pace. No, questo è uno dei fatti più inquietanti, no? Noi ci siamo abituati, almeno io mi ero abituato a un'idea anche prima della Costituzione, dell'Unione Europea, intesa come moneta unica, come quindi federazione, di un'Europa che comunque giocava un ruolo veramente valoriale, no? All'interno di un contesto in cui un ripudio della guerra, che noi abbiamo in Costituzione, ma che più in generale era la lezione della Seconda Guerra Mondiale, mi sembra sia stato completamente ormai raso al suolo, no? E infatti stiamo parlando di un riarmo, e anche qui bisognerebbe chiedersi: ti riarmi per chi? Contro chi? Contro cosa? E soprattutto a che prezzo? Anche tu nel tuo post sottolineavi che a livello europeo ci sono diversi partiti e un'avanzata anche dell'estrema destra. Forse anche, come dire, l'occasione per capire perché c'è questa avanzata. È assolutamente l'occasione, e mi sembra anche, riprendendo proprio le parole di Spinelli nel manifesto di Ventotene, che mi sembrano profetiche in questo senso. Lì si citano i democratici, intesi come liberal-democratici, che in momenti di crisi, non capendo più la realtà, poi creano uno scollamento totale con la popolazione, con le proprie basi. Noi sappiamo che in realtà in Europa l'idea, no, in molti paesi, giusto o sbagliata, che bisogna più ricercare una pace, no, poi bisogna vedere a quali condizioni, ma che non continuare sul terreno della guerra, si è radicata nelle opinioni pubbliche. La sinistra, o cosiddetta tale, ha completamente ignorato queste istanze, che diventano a questo punto preda delle destre, paradossalmente, e quindi le liberal democrazie stanno scavando la propria fossa in qualche modo, dando sempre più fiato a un'opposizione che è stata delegata addirittura a partiti parafascisti o paranazisti. Ecco, questo a me pare un fenomeno estremamente inquietante, no? Perché significa non capire la realtà, non occuparsi di politica, ma andare avanti per slogan, e soprattutto mettere l'Europa in molti loro paesi, lo vediamo in tante recenti elezioni, in una condizione che in un futuro potrebbe addirittura provocare dei ribaltamenti, dei ribaltoni incredibili, no? A favore dei partiti della reazione, dei nuovi movimenti neofascisti e neonazisti. E questo mi sembra una mancanza, no, di lungimiranza assolutamente assurda. Quindi un'Europa che va rifondata? L'Europa che andrebbe rifondata, però i valori che si proclamano bisognerebbe ogni tanto anche perseguirli, no? Io penso che questo scollamento, che è già iniziato da tempo e che si è consolidato in una visione iperliberista, finanziaria, monetaristica, che caratterizza l'Europa, ma che poi trascende da tutti i suoi valori fondamentali, che erano proprio quelli che invece avevano ispirato, no, gli europeisti ante litteram. Ecco, questo dovrebbe essere il punto fondante della riflessione e della rifondazione, ma purtroppo non è così.